adesso con la radio a manetta, sì. Non ho capito nulla di quello che ho detto, stai uscendo tutto strappato. Abbassa appena. No, no. Non riesco a farti più. Sempre così, è sempre così. La radio non la sento chiara. È tutta blu. Non mi ricordo, posso abbassarlo. Perché te cazzo guarda adesso? Adesso va meglio, dai. Va meglio? Va meglio, ma non è perfetta, dai. E così? Meglio va. La sento sempre strana, sempre strappata. Guarda così. Guarda adesso già. E adesso va meglio. Cosa gli hai fatto? No, ho diretto adesso il microfono. La supermetta di questa radio. Non parlare vicino, prova a lontanare. Guarda, sono. Sono 20 centimetri, non so. Guarda, 30 centimetri. Così è chiarissimo. Anda bene, 1, 2, 3, ma ogni tanto lo attacco questo, ma non mi piace questi microfoni così. Ma forse sei tu che stavi parlando troppo vicino, perché adesso come ti sei allontanato la voce è chiara. Chiara, chiara. Mi sa che ti sei abbassato di... Cosa? Aspetta un attimo, guarda se tutto aperto, perché stamattina eri 9.40, adesso sei 9.30, aspetta. Controllo se tutto a posto qua, ma qua è tutto a posto. Non lo so, perché qua è uno di stazionari, non si sposta manco di un millimetro, è sempre così. E vabbè, interessante che non abbia stazionari da buco. 9, appena 9, oltre 9.30, sì, strano. O meno che stamattina non avevi qualcosa attaccato, perché stamattina eri 9.40. Lui stamattina era col kit. Schiacceranno più watt. No, ma non si muove, no, da cazzo da gommettina, adesso non si muove nemmeno. Hanno fatto un sistema di cavo. Un sistema di cavo, il filo incastrato dentro la molla, dentro il filare del terminale della molla e poi fascetta. Cosa è successo? Che questa fascetta si è marcita come una toccata di un coso franco nel paradagliosso. Ma che filo è? Un filo sottile allora? No, grosso. È un filo grosso che poi finisce duro in punta, capito? Rimane, non rimane sfilacciato e quello, rimane con la parte finale dura. E magari saldato in punta. È come se fosse saldato, sì. E c'è rotta la fascetta, capito? Ma se ne è accorto per caso, perché abbiamo fatto 1000 prove. Allora, si abbassavano, deve essere come toccava la molla. Lo faceva entrare un pochino, capito, come spostava, c'è una specie di anello che si regola con le stazionarie, devi smollarlo con una brugola e poi si sposta, e come deve essere, come toccava l'anello spostava anche il cavo, e a volte era 1 e 1, poi abbiamo tutto quanto messo a posto, scendiamo giù, torna con lo scarabo, se no che è un inghippo, dice già, ma secondo me e rosmetro, abbiamo provato un altro rosmetro, la stessa cosa, siamo risaliti su, avevamo già sceso tutto scala quanto c'era, siamo risaliti su, l'abbiamo ricontrollato e Franco mi ha detto, cazzo già lo vedi cosa è, raga, non me ne era accorto, c'è pratico la fascetta che sta stringendo questo filo, ne è uscito mezzo fuori. Questa è la soluzione che ti ho detto, migliore era con un portatile, un rosmetro e un pezzo di cavo attaccato direttamente all'antenna. Tanto il problema è lì, sì, che già escludevi il PL e il cavo di discesa, già quello, così sapevi che era il problema già nell'antenna, capito? Senza fare prove giù, su, eccetera. Ma noi abbiamo usato il cellulare, io stavo giù col cellulare, Franco regolava, mi diceva guarda adesso, guarda come va, no? Io dicevo aspetta, fermati così, sembra che stiano abbassando, sicuro, guarda bene. Invece ho ancora provato detto io, no? Perché lo vedevi subito, che problema, perché le stazioni aeree te le davo anche da su con un altro cavo attaccato tramite o un analizzatore oppure un portatile con il ROS metto su, capito? Senza bisogno di fare tutte quelle robe. Ah, beh, l'importante è che ho risolto. Ma così facendo, come dici tu, se c'è qualche difetto nel cavo lo te ne avvisi, il cavo di discesa. Mentre invece, nella maniera che sto dicendo io, se c'è qualche difetto te lo segnalo. No, non hai capito già. Il cavo di discesa lo stacchi dall'antenna. Il cavo di discesa lo staccavi dall'antenna. Ci attaccavi un altro spezzone di cavo di un paio di metri così. Attaccato al rosmetro tramite poi il portatilino. Andavi in trasmissione. Se c'erano le stazionarie vuol dire che il problema era nell'antenna. Perché se il cavo è staccato di discesa e ti dà lo stesso problema, il problema dov'è? Nell'antenna, no? Cioè, mi sembra ovvio. Una volta poi regolata l'antenna, riattaccavi il suo cavo, se c'era andato di nuovo il problema, allora era anche nel PL, ma hai visto che alla fine era nell'antenna il problema. In quella maniera lo vedevi subito, immediatamente, perché attacchi un'altra stazione di cavo all'antenna, va importante, stazionare di nuovo, allora il problema è nell'antenna, c'è poco da scappare. Ma io ero già arrivato a quello, se il problema era nell'antenna l'avevo già capito, perché io se le prove le avevo fatte, le ho fatte a casa, cambiato spezzoni, rifatto il PL, rimesso il PL nuovo, quello della discesa che l'ho messo nuovo, risaldato, rifatto tutto e faceva la stessa cosa, quindi più che l'antenna o il capo di discesa non era, ma il capo di discesa non è possibile perché l'ho messo nuovo. A me me l'ha fatto, detto, ma l'ha fatto a me, e cos'era il PL? Il PL che voleva rifatto dell'antenna, no, perché era questa l'antenna, perché una volta che era tarata, stretto tutto, agito, non è possibile. E invece cos'era? Il PL dell'antenna, il PL del capo di discesa. E a volte magari ce l'ha saldato da freddo, te l'ho fatto. Infatti io il PL l'ho cambiato perché l'ho rifatto due volte il PL. E faceva la stessa cosa, e allora qua, fatto bene, cazzo, sudato, accarezzata la lavagna, c'è anche la doppia calza, cioè praticamente c'è la calza più quel involucro, tipo i cucchi da involucro. L'ho messo bene tutto quanto, saldato di nuovo la stessa cosa, allora qua bisogna cambiare il piede, fino a giambrubiede, figurati questa tutta giovata. Immagino, per quello che ti ho detto, la prima cosa da fare se non vuoi salire sul tetto è controllare il PL di discesa che hai lì, lascia perdere gli spezzoni, tutte quelle cose, prendi il PL e controlli quello, lo rifai, se te lo fa lo stesso già quello l'hai escluso però, capito, perché è inutile vai a salire all'antenna quando magari il problema è giù. Vai a esclusione, no? Le cose più semplici e poi vai diretto come hai fatto alla fine, il problema te lo dava lo stesso. Ed è perché era nell'antenna. Vabbè. Ma che non ha nemmeno si frazzicheggia, blu? Adesso gli ho messo in acciaio, speriamo che faccia il suo lavoro bene. Caspita, ci mancherebbe, sei in acciaio inox, poi l'hai isolato anche a voglia. Così c'era scritto nella confezione, da voi se l'hai scritto cazzato non lo so. Tra un anno e mezzo te ne accorgerai. Tutti e due ce ne ho. Hai capito? E che cosa? Le mani, tutti e due, mezzo all'acqua. Vabbè, poi li prende maestrale, biglia, salsedine magari qualche volta. E vabbè, tutte le antenne prendono queste cose. Alla Mantova ne ho fatto due volte la manutenzione, l'ultima volta Fabrizio mi ha rifatto contorni, ho tutto il pezzo di sotto dove attacca il PL, perché era tutto ruggiroso, l'ha rifatto, messo i radiali nuovi, è messo anche il cavo che c'è interno, me l'ha messo più grosso, di modo che se volevo attaccare più watt li potevo attaccare, mi ha rifatto il lavoro, sembrava nuova, luccicava, da giù si vedeva lucida proprio l'antenna, sembrava nuova. mannaggia. Ma quasi ci domani. Perché ho messo il microfono l'altro. Spiega basso. Che fine ha fatto con l'antenna già? Che fine ha fatto? Ha volato a Claudio. Poi non lo so se doveva prendere qualche pezzo, perché praticamente si era rotta la molla, mi si era varcita la molla e si era staccata. E lui ha detto che se l'avrebbe fatta aggiustare, cosa se l'ha presa per dire di lui. Non so per chi l'abbia usata, magari qualcuno che gli serviva. Io gli avevo detto, se c'è qualcuno che gli serve, ne l'abbiamo. Come mai non l'ho tenuta? Come mai non l'ho tenuta? Te l'ho detto, c'era la molla spaccata. E visto dove si mette il bullone della molla, lì era spaccato, era staccato tutto. Ah, caspita. E poi c'avevano anche il coso della resina che si sfibrava, mi ricordo, mamma mia. No, i radiali li avevo messi in alluminio, i radiali li avevo messi in alluminio pieno, e li avevo messi un bullone passante, i cazzo di radiali erano di lusso. No, non per radiali, anche quello dell'antenna, l'isolatore, dell'antenna che si sfibrava. E vabbè, ma già vedo i prodotti, non per quelle cose lì, vedo i prodotti, vedo la resina spray, eccetera, ma se l'hanno spostata sopra, e comunque la Mantova abbiamo fatto 12 anni e senza toccarla sono stata roba di una decina d'anni. Qualcuno ogni tanto la mettono in vendita, la 5, la 1, la Turbo. Di queste che ho io, te l'ho detto, solo il tempo può decidere. E boh, io non posso dire un'antenna ottima, un'antenna che dura, questo non posso dire. È una bella antenna, lo posso dire, e boh, però basta, per il resto non posso dire, perché un'antenna che ha un anno di vita non lo puoi valutare. Vabbè, ma del materiale ti rendi conto che è un materiale più grosso, più da tenere di conto. A me hanno detto che più spesso, gli spessori sono più grossi, la bullonatura è tutta in acciaio, insomma è fatta bene. Ah, quello sì, è bellissimo, fatta bene, quello sì, quello te lo garantisco. Poi la durata, bisogna avere sempre la fortuna che non ti succeda nulla, perché magari una piccola fesseria e ti va di vedi come è successo a me, una fascetta era di capo. Se attaccare come la Volvo mi ha scesa un paio di volte, perché è un casino, cioè devi montarla tutta, proprio tutta, radiali compresi, già devi sì, quando sono ingombranti e lunghi, tirare sui peli, e poi scendermela di nuovo, smontare il radiale, non è che la smonti così, che la scendi così, non è un'antenna senza radiali che la sfili, non è così questa, no, ogni addavaglio, ogni buccia. Due volte ne l'ho scesa per pararla per bene bene bene come la volevo io. Allora ripeto, ogni volta di smontare tutto, radiali, capito quanto c'è. Ma da dove si sta quella dalla molla? No, dallo stilo di su, magari dalla molla. Dallo stilo di su, e allora tocca aiuto a pararla, e pararla tutta. Ma se te lo sto dicendo, tutta, smontare i radiali completamente, scendermela tutta, capito? E scenderla poi a terra, dal tetto al terrazzo, e allungare, accorciare, per quello che è un casino questa antenna, capito? Per chi ha un terrazzo, per chi non c'ha un posto migliore, magari. Allora ripeto, sono i radiali che devi smontare, perché hanno rotto le scatole e coricarla con i radiali. Ma a me devo avere bene il terrazzo che è quello grande. Capito lui? Il tetto mio è a terrazzo, già lo sai com'è, è bello grande, si può stendere tutta la terra. Lo so, ma devi avere il. Siccome sono 2,70 radiali già, non sono corti. Quando la metti in orizzontale come fai? Devi stare molto molto attento, capito? Ma è un casotto. Vabbè, e se riuscite a portarla a zero di stazionare? Non ho visto il video, te l'ho mandato un paio di volte. Uno a zero, zero proprio. Anche con 100 watt, vabbè, che regge come antenna. Che ha pagato. Ma anche io sono così, eh. anche sul 40, ho provato 40, 20, 19, 1, tutti sono uno e si muove appena, manco uno. Meglio così, infatti, meglio così allora. Allora, ti dirò di più, è stata tarata meglio adesso che la prima volta, perché la prima volta mi dava uno e due di stazionari in certi canali, invece adesso mi dà solo uno e appena si muove, ma pure uno. Accettabilissimo, normale. Sì. Sono contento che sono riuscito a risolvere, perché malgrado ci sia poca gente e cose, però io la cosa la voglio funzionante, se non ce l'ho come voglio io non mi piace. Dopo c'è quella baranuia, perché poteva peggiorare la situazione. Se peggiora poi non puoi più modulare, stavo modulando con l'accordatore, la stavo facendo scendere, scendevano a 1 e 2 con l'accordatore, ma non di più. Però cosa accordavi? Aveva anche ragione l'accordatore, cosa accordavi? Ci rubire la cura. Meno male che non ha piovuto, ha fatto vento, perché sicuramente sarebbe mosso quel filo e ti avrebbe peggiorato la situazione. Io penso che anche magari qualche uccello, come si è calato, essendo un po' maccio, l'ha buttato un po' fuori, capito? E stava quasi uscendo fuori il mio filo, era già sfilato. Io c'è le gorracce ai lombi sul radiali, ti ho mandato una foto l'altro giorno. Oltre alle cornacchie adesso ci sono gli storni che hanno capito che sugli alberi del cortile si sta bene, quindi cosa fanno? Arrivano, si mettono tutti sui radiali miei e poi volano verso l'albero quando rientrano. I radiali tu li devi vedere come si muovono quando se ne volano, tutti a 20 alla volta. No, quello invece no, solo una borraccia, lei si mosa e si siede proprio alla base, però proprio alla base. Però altri uccelli non li ho mai visti sui radiali. Si burra, ci sono mari che un radio. Una volta questa signora mi ha detto, signor Gia, non è che metto una bottiglia in cortile dove ci sono i posti macchina? Mi dica se posso pulire. Mi ha detto, guardi, c'è un uccello sotto la macchina, ho paura di metterlo sotto. Se non è che me lo può prendere, che così almeno me ne vado tranquilla, che ho paura di investirlo. Sono andato e mi sono ricordato, era una cornacchia, l'ho presa in mano, come l'ho presa in mano sento qua. C'erano il padre e la madre sopra l'albero, si sono tirati a me, sono stato correndo nel portoncino che va nel cortile, ho fatto in tempo, cazzo, si sono sbattuti al portoncino, ma immaginati quanto sono cattivo. È come quei film dell'orrore che fanno di vedere quei curracci. Adesso non mi ricordo se me l'ha detto, come si chiama, del latte dolce, ma che non sta più entrando. Adesso non mi viene il nome, vabbè, comunque mi ha detto lui che la moglie l'ha beccata in testa, che stava tornando con la spesa e recupera una bicca del carro. Fatemi male, quindi non vai, perché poi non neanche la cacciano. Speggia. C'è nessuno? C'è qualcuno su 10? Attenzione, canale 10, prego. Bello, avvisi. Stavo controllando una roba qua. Avanti. Un secondo. E ho attaccato l'altro adesso, vediamo un po' come va. Questo sto uscendo già. Ora sistema confermato. Sistema confermato. Stai uscendo ben male, Luca. Cosa? Stai uscendo, non ero io. Sistema confermato. Allora la registrazione. No, è l'allarme che stavo abilitando un sensore, un allarme di casa. che per robotica la sentivi, no? Un po'. E adesso già va bene. No, va bene, e questa qui è una delle pippe che ho qua, dai, la chicca peperita. La chicca peperita? Uno degli apparati, dai, uno dei migliori che ho qua. Ah, collezione vai già. A me mi piace così. A me non ne ho tanti, ne ho 2, 4, 5 ne ho in tutto. Uno per la macchina e 4 per casa. Tutte stazioni in base, tranne questo qua che sto usando, che è la stazione per la macchina, dai. Questa va bene in macchina, è molto performante, dai. Ti metto, esce una cannonata quello. Cosa? Li metti un eco, esce una cannonata. Sì, ma anche senza eco, ma c'è anche il microfono, il coso, come si chiama? Ce l'ho, il microfono con l'eco. Ce l'ho il microfono a palmo con l'eco, con il Proxel. No, come radio era meglio l'altro, come radio, come modulazione. Allora, questo l'eco ce l'ha, però quando rimetto l'eco innesca, non capisco perché, con l'amplificato innesca. Se invece rimetti il microfono normale non innesca, rientra, capito? Ma qualsiasi microfono con l'eco? No, se io rimetto quello il microfono amplificato e poi gli attacco l'eco dell'apparato, innesca. Bisogna abbassarlo da dentro, che fa rientro. E tu metti il microfono con l'eco e risolvi. Sì, ma va bene così, dai. Posso fare un'altra cosa, attaccare direttamente il microfono con l'eco e l'eco ce l'ho. Addirittura c'ho quello che non finisce mai, tu lasci premuto il tasto e all'infinito. E sta sempre M300, io so sì che ha un microfono. M300, no, io c'ho il coso, c'ho il Proxel. Il Proxel, ma la vecchia gatta ce l'ho. Ma il DM1000? Cosa? Il DM1000. Non riesco a capire cosa dici, boh. No, più bacio di così. Ho detto il DM1000. Il DM1000, sì. Adesso sì che va bene, la radio adesso è chiara. Prima non si capiva cosa dicevi, non si capiva. Adesso lo metto il DM1000, quindi te lo faccio sentire. Ce l'ho a mezzo, a 8, 0,8, ma che neanche uno. Forse siamo troppo vicini, Lubu. Ma ancora devo abbassare. No, adesso va bene. Lo lascio così. E poi c'era il diavolo rosso. Però voglio mezzo bucare sul microfono. Ecco, a voi Luca Flipper. Gianni, c'è Radio 1, Radio 1. Da così quanti, no, meno di uno adesso, si sente meno come metti l'eco, però di radio sei quasi zero. Devo controllare la batteria, magari quella. E basta, da quasi niente di radio già. Radio 1 con l'eco si sente, ma è radio 1 proprio già. Basso sì, già. Basso, proprio quasi zero di radio. A me la Roma. Adesso sì. E non proprio il microfono, perché la batteria è nuova. L'ho messa nuova. È bella questo eco. Cosa? E l'eco dov'è? No, questo non ce n'è di eco. Questo è senza eco. L'altro ce l'aveva l'eco, quello che esce in basso. E perché? Come perché? Questo è un microfono amplificato senza eco. Questo invece quello amplificato aveva l'eco, solo che se non esce di radio. No, quasi zero di radio, vedi. Si sentiva anche l'eco, sì, però radio non veniva. E probabilmente è il cursore. Il cursore dell'amplificazione? Sicuramente. Mi sento già, ci sentiamo dopo, dai. Ehi, allora, va bene. Non c'è problema, ciao. sempre lo stesso, già. Sto facendo roba qua, dai, sono in ascolto comunque. Sei sempre basso, ciao. Ascoltati l'audio che ti ho mandato già del, di come stai uscendo. Hola, 1, 2, 3, prova, prova, prova. Hola, 1, 2, 3, prova, prova. E beh, Sandokan. Attento, Sandokan. Attenzione, binario 10, cambio. E beh, Sandoka. E beh, Cicomino. E beh, sa. In barra mobile sono, come ti arrivo? Nove, radio 5, dove sei? Sotto casa. Sto uscendo adesso, mi sta andando a pompone. Ah, no, esce bene, sto uscendo bene. Che bagaglio. Me mi ascolti bene, sì. Di lusso. Andave, andave. A farsi sentire a pompone, eh? Esatto, già va. E adesso mi sto allontanando da casa, dai, sto salendo su al monte. E andave. Sempre bene, mi ascolti con questo apparecchio citofonico. Oh, bene, bene, bene, bene, bene. Arriva abbastanza bene. Sto pagando, pagando. E l'antenna è piccolina, non ce l'ho più quella alta alta, l'ho tolta. Ne ho trovato una che di russo va bene, non è italiana, è polacca come antenna. No, cosa ti fa una lunga? Cosa devi fare? L'autoscontro? No, questa qua va bene, mi sento da tutte le parti con questa antenna. Fatta bene. Va bene. Arriva dalla Polonia. Ma lunga, tanto lunga è brutta, bene macchia, cazzo da bailare, va. E poi la bigliare per la macchina all'autoscontro. Appunto, prima una volta si lo usavano, ma va, cazzo, non ve ne nessuno. Infatti, prima che ne va più alta, era più drago. Cazzo, va. Ma se poi un'altra la roba così ti brava, Ti sento anche, adesso sono vicino al Ponte Nuovo, sto andando. Sì, vabbè, noi nella radio siamo vicino, davanti, dai. Ma adesso è coperto qua, c'ho le case, capito? Mi ascolti sempre, sì. Ti ascolto, ma un po' stai sparendo, già ti ascolto lo stesso però. Ehi, andave, andave. Tu con che antenna stai uscendo? Una frusta, Vanno bene con le antenne, le frustanera vanno bene. Sì, quella frustanera già tarata. Cavagava. Andave. Pensavo che entrasse Alessio, cazzo, dove ti accendi che sta arrivando. E chiama il telefono. Infatti lo chiama il telefono, sì. Ma devi andare a casa sua. Gli sto portando un pezzo che gli serve, che ce l'avevo io. Non gli serve completare un micro. faccia a Simona che non sta bene. Cazzo di asso. E adesso non so, contanto stavo andando in banca, faccio l'uno e l'altro, c'ero vicino a casa di Antonello. Sì, deve c'è il Conti. Ah? Deve c'è il Conti, sì. Io sono alla fine del Ponte Nuovo adesso, fine del Ponte Nuovo. Allora siamo vicini ancora, vicino al Buri. Perché poi devo scendere col cane, lo stavo per portare, poi ho detto va, magari andiamo a farci una cosa al bar. E lo lasciavo in macchina? No, col caldo, se lo lasci in macchina ti spaccano il vetro. A Pordotore se uno l'ha lasciato in macchina, il cane, i pompieri ti hanno spaccato il vetro e l'hanno liberato. Sì, perché poi stanno male, capito? Non fa la macchina, io non lo lascio mai. Mai. Preferisco non portarlo se non posso, però in macchina non lo lascio. Da voi greba da rugaggio e ti arricciano. E vabbè, adesso caldo non ce n'è, no? Ehi, non ce n'è. Tu dici tu, in casa io mi posso dire il giubbotto della tuta perché sennò c'ho caldo. Ehi, cazzo, sono con mondanti io, pensa tu. Ah, tu sei chi ci sei? Io sempre a casa, sempre mondanti a petrolio. No, io così no, d'estate sì, d'estate metto pantaloncini corti a petrolio. D'estate lo stesso, d'estate e vai a l'inverno non mi attesi, l'inverno mi metto maniche corte e pantaloncini in inverno. In calore sì. Io ho sempre così, ma anche quando ero su a Milano, quando arrivavo da lavoro stavo sempre così, maniche corte, cazzo cura neve in vita, ma sempre a maniche corte. Forse perché in divisa c'è caldo, capito? È quello, che in divisa ti dà caldo. Cosa? Cos'è oggi? No, non ti sento più. Allora, via luna e sole, adesso non ti sento più. Mi senti? Oggi, non mi senti? Via luna e sole! Ehi, già ti ho sentito. E tu sei un bel basso, però. Non lo so. Ma io tratto di 100.000. Eh beh, quando sali su sì, è aperto. Sto salendo a casa Pum Pum. Così? Eh beh, che lì. Ehi, Giovanni, buonasera. Ciao, Manuel, ciao già. Da Pum Pum sta salendo. Ciao, Giovanni. Ciao, già. E con pugna a capo Antonella, capo ammassarlo, grazie, per carità. Le sto portando un pezzo che gli serve, dai, che ce l'avevo. Le ho sopportato per aggiustare un microfono. Allora fai bene, va. Salutalo, ciao. Qua sono, se non sono arrivato ancora. Bene, se sono arrivato, sì. Come ti arrivo dalla macchina? Sei 9, qua sei 9. Già va bene questa antenna, c'ho l'antenna piccolina, non c'ho quella grande. Vado bene quelle piccole, perché io quella che c'era sulla Renault, che era piccolina, mi sembra 45-50 centimetri, usciva benissimo, dappertutto mi sentivano. Senta, la sta bene quella lì, è un momo. Questa qui è un'antenna polacca e anche quando vado fuori mi ascoltano sempre. È un'antenna polacca, c'è in Alghero, da tutte le parti, mi ascoltano. E va bene, è fatta bene questa antenna. Meglio così allora. E allora Manuele? E me, adesso ho finito di mangiare, adesso mi rilasso un pochettino che domani si lavora attorno. Mamma mia, ho smontato stamattina, dalla notte che ho fatto. E beh, grazie. Ti sei riposato allora? Sì, a voglia. E vabbè, riposato no, a tiro un po' di cosa, che stavo svuotando un garage in via Prati, e che devo lasciarlo, che c'ho la moto lì, adesso per fine mese lo devo lasciare, e quindi sto iniziando a tenerci la roba. Ah, la moto lì ci metti? E allora, non la lascerò di vola, no? Invece cammina in moto, cammina in macchina, quindi c'è troppo caldo in macchina. Non ho capito, Giovanni. Ho detto, invece camminare in moto che c'è più fresco in estate, cammini in macchina. Beh, in macchina devo andare, perché se quando faccio una notte per forza devo andare in macchina, in moto come ti vai? Ah, per il lavoro va bene, cazzo, no, pensavo per andare in giro, va. No, andare in giro già vado con la riesco con la moto. Ho detto, sto liberando il garage perché lo devo lasciare. E quindi sto cercando un altro garage per metterci la moto. Ah, ah, perché non ce l'hai qualche ripostino, ma qualche magazzino lì? No, ce n'è, il brutto che di queste case hanno fatto il magazzino sopra. Di noi c'è il magazzino sopra, però in soffitta. A posto del magazzino potevano fare il magazzino sotto, per metterci la moto, biciclette, quello che è, invece no. Allora invece l'hanno fatto anche lì via Florida, dalla Sicina, hanno fatto i magazzini su, grazie, boh, ma tutti immagini, grazie. Cazzo, invece fare i soldi l'hanno fatti su, cazzo mi cazzo di tutta la moto sopra, no? Quanti cazzo fare? A parte che non mi cazzo, non va mai mago la lascia sopra. Perché sapeva forse essere sceso Gianni, e Gianni ci deve essere sceso, dai. E Marcello, cazzo, il magazzino vuol dire molto, quando in terra come ce l'ho io è un'altra cosa, dai. Anche se stretta la riporta, ma va bene, hai visto quanta roba ci sta? E io ce l'ho così, Giovanni, io ce l'ho così sopra. Sopra sono tutti così, solo che l'hanno fatto, hanno sbagliato. Dovevano fare giù, che cazzo ne vai sopra, non faccio quasi mai. Io cazzo, io vabbè, avevo l'assessore là, a piedi, ma non è che puoi salire a piedi, no, perché è un errore che l'ho fatto allora, cazzo, ogni macchinata che fate è inutile, non si può provare quasi chi sia altro. Come sta facendo che Marcelli, cazzo, di buttare, cazzo, ma che fece da cali la strada bici, e il passaggio fa tutti, cazzo, che mi vuole più la saluta se sono buttare. Oh, sì, ma... Fa piazza per carità, oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Andiamo bene, andiamo. E Tore, non sei sentito, Tore! Ah, forse su 23, aspetta che passo 23 a chiamarlo, già ritorno subito. Sì, oh già, ci sì. E chi ce l'ha sei impegnato con i nipoti oggi? Impegnato sì, via. E quella commissione, Gianmarino, non l'ha fatta ancora, no? Ah, quella che ce l'avevo detto io? Beh, io stavo aspettando a te. Stavo aspettando a te, ma se no... Se non sei potuto venire, cosa vuoi fare? Ascolta a me, domani cos'è? Perché io faccio dalle 2:30 domani. Casomai ci passo domani mattina una scappata. E vediamo un po' se ci riusciamo a prendere. Non so se ce l'ha ancora quello lì. Se li telefoniamo, se ce l'ha lo prendiamo. Anziché che cosa avrei capito. Sì, intanto il numero ce l'hai tu. Sì, c'ho tutto, c'ho tutto. E allora domani, casomai, tanto uscire di qui domani. Ehi, a piazza di terra a contare mattonelle. Cosa ne so, magari andrà a pedare un mare, cosa ne so. Oh, io non sto uscendo, Emanuele, non ne ho voglia più, ma c'è, devo scendere anche in campagna, non ne ho voglia. E cosa mi fa? Oh, piazzo a casa domani mattina, va. Eventualmente fa uno squillo prima, dai, almeno scendo direttamente giù dopo. Sì, quando sto uscendo da casa ci chiamo, dai. E così almeno vediamo una cosa lì. Sempre che ce l'abbia, perché ne aveva uno solo, non so se ce l'ha ancora. No, cazzo ne sono altri anche, capito? Per cui non mi sono problemi. Ok. Andare. E le camane? E chi mi sa, non ve ne ha nessuno, grazie a Anna. No, non mi sa neanche grazie a Anna pure. Vabbè che non mi sono combassato già una ghita che non vi basso. Più di una settimana. È solo una ventina di giorni che non lo sento. Io il corporale mi sono dimenticato. E forse faccia non sta bene, non lo so, non lo posso sentire più nessuno. Beh, stamattina ho acceso un pochettino, c'era l'altarino, ma 5 minuti e poi abbiamo chiuso, poi acceso poco fa, boh. La mattina non c'è mai nessuno, capito, che l'accendo certe volte la spazzolata e dopo lo spezzo, perché non c'è nessuno, tutto lì. No, Graziano, l'ho visto nel gas, non è più visto. Già l'ho visto, poi a poco fa pure l'ho visto che era chiacchierando con Mario. Poveretto anche lui, zuppi zuppi. Allora, lo bacco uno virà, però la giudica veniva dalla coppa, zuppi zuppi era. E evidentemente c'era necessità di quell'attrezzo, capito? Ma c'era poverino, vivo ma miracolo, vivo per miracolo. Me l'ha detto già, sembra che devono operare, quanto ho sentito, devono fare un'operazione, quanto ho sentito, se l'ho capito male, se lo fai domani mattina glielo diciamo, dai, vediamo un po'. Lo vedo ogni tanto dalla finestra a passare, perché passa per lì alla colla, la crucifetta a tirare qualche cosa. È un macello, un macello, giovane come me, cazzo, per carità, aiuto, non se ne capisce più niente. L'età mia, c'è giovane, c'è l'età mia lui, c'è l'età mia. Purtroppo è così. Certe volte le cose escono fuori, almeno se la aspetti e cadono subito. Non sai come c'è, nemmeno se la aspetti e cadono e vengono le cose. È un casino, ma anche queste cazzo di vaccini che abbiamo fatto pure. Non è visto che hanno denunciato per questi vaccini qua e me l'hanno tolto dalla circolazione. Non l'ho sentito, ma io devo pensare, quelli là li ho fatti tutti e quattro, li ho fatti, però quell'antifluenza non l'ho fatto perché ogni volta che faccio quel vaccino si prende lo stesso, capito, è male muro, allora abbiamo deciso già tre anni che non hanno le farne, però cazzo, beh, cazzo, l'altro giorno mi hanno ricoverato, che ero sempre a brividi con la febbre, brividi freddo, sono stato una settimana in casa senza muovermi, mi hanno dato la cura, sembra che sta andando bene, e ancora sono in cavallicenza, cazzo, ho preso un sacco di cose, adesso devo fare un'altra analisi, devo ripetere, perché ieri sono andato lì a Palazzo Rosa a fare la vista, e mi hanno detto di rifare queste altre analisi, e adesso prendo l'appuntamento, faccio queste analisi, glielo porto e vedo un po', e da una cosa all'altra, ma lui è, ma, io ho 86 anni, in 67, 87 Emanuele, perché gli attacchi ne stanno uscendo e ha rotto il collo, e mia moglie è sempre con gli stessi, prima le faceva mal con la mano, poi la febbre, adesso la tosse è un casino. Un macello veramente, non si capisce più. E poi non è che questi appuntamenti non se ne vanno, perché non ce ne sono, cazzo. Boh, devi andare a Cagliari o fuori, cazzo, per avere un appuntamento, ma è possibile, cazzo, una città come Sassari non ti danno gli appuntamenti, e tra un anno ce li danno, non è più, capisci? Si può immaginare. Cazzo, la cosa di amore che devi dare gli appuntamenti, ma queste sono fuori di testa, proprio la sanità non ce n'è, proprio sanità, proprio zero, A me è peggiorente, diciamo. Siamo peggiorente, dai indigni, non si comprende di niente. Sì, anche l'appuntamento è andato già molto. Cazzo, puoi immaginare. Ma la causa di Giomarino di fesserie. Sono di invece non ci siamo più credi niente. L'altro giorno siamo andati con la Salina a Urbia per ritirare un certificato, immaginati, ma che certificato spedisco? Puoi immaginare già, puoi immaginare, a me lo stavo dicendo già, la Salina. Vedo un po', adesso dimmi tu per il certificato devi ritornare a Urbia, ma poi dici che a te se non c'è nessuno a accompagnarlo, meno male ha trovato a te, volenteroso, e hai fatto il favore a darci, gatta, è un macello già. Io li rifiuto, quando me li danno fuori li rifiuto, Massimo, Platamona, zona così, non ci vado fuori, a molta pazienza. È andato fuori, ma io gli dico no, me ne lo prendo un altro giorno, cerco quello più vicino. Cazzo, ma tu ti immagini, io per esempio fuori non esco più io in macchina non esco più, né di giorno né di notte, i sasseri va bene la macchina, c'è anche per 2 anni ancora la patente, però fuori non ci esco, non ci riesco, mi dà fastidio perché ho paura, e allora preferisco di non uscire, i sasseri sì, i sasseri magari perché lo conosco perfettamente e già rischi ancora, ma tra una netta voi no, non ne voglio più macchina, mi sono stanco anche di guidare già. A una certa età mio suocero aveva mollato lo stesso, la patente l'aveva restituita perché non se la sentiva più, perché ha detto che a una certa età non ci sono più requisiti psicofisici e morali che chiede la legge, non c'hai più non c'è più riflessi. Allora l'anno scorso me l'hanno rinnovata per 1 anno, invece quest'anno a febbraio l'ho rinnovata, dice, per 2 anni. Invece da me l'anno scorso me l'ha dato quest'anno 2 anni, per cui per 2 anni ancora sono tranquillo, dai. Però non mi va più a camminare in macchina, ecco, non c'è più quella voglia di prima, capito? E forse è anche l'età, capito? È per quello, e certe volte magari e fuori non esco, non esco, fuori sassari non esco, assolutamente. Dentro sassari già vado, dai, ben tranquillo. Interessante è quello, dai, che va dentro sassari e ti sbrighi le faccende. Beh, faccia allora, che di solito magari quando a fare qualche pista già ci sono i miei figli, mi accompagnano loro e sono tranquillo, però quando loro stanno lavorando, chiaro, se non c'è nessuno, prendo la macchina e andiamo, capito? Però adesso già siamo tranquilli. Ok, vai Emanuele. Vabbè, toccate che riesce a muoversi ancora, andare fuori non fa, le zone di Urbia non fanno, vabbè che pure a Sassari sono mancanti, pure a Sassari sono mancanti, bisogna avere lo sicuro da Rido. Ma per esempio a Urbia, ovvio mi perderei adesso perché non c'è più quelle flessi di prima, capito, conoscevo tutto, adesso è tutto cambiato, strade nuove, segnali nuovi, eccetera, sì che preferisco non rischiare, non ci vado, assolutamente, capito? Male mi faccio accompagnare, è così, capito? Perché adesso è tutto rimodernato, quando viaggiavo io, sì che giravo tutta l'Italia con camion io, e non mi sono mai perso, grazie a Dio, e non c'erano le cose che ci sono adesso, è facile arrivare al punto giusto. Perché prima andavo tranquillo, ero riuscivo a tutte le parti e non mi sono mai perso. Prima navigatore non veniva, avevo un navigatore, ti dare la via e tutto, ti porta direttamente lì. Sei aggiornato, non sai quante vie ci sono che non sono aggiornate, per cui ci porta dall'altra parte. Anche quello, però uno che è giovane, ragazzo, già lo può fare questo servizio, così è già. E se metti Google Maps ti porta sempre nei posti dove devi andare, anche se sei navigatore, io uso Google Maps e ti porta lo stesso, dai. Però con l'avvenatore più di una volta ci ho bisticciato, Emanuele, perché mi voleva portare da una parte e invece mi diceva di girare, non c'era posto per girare. Anche io, quando io usavo lo stesso parecchio queste cose qua a Milano, però quando, perché noi viaggiavamo sempre a Milano per lavoro, e ogni volta dovevi cercare un cantiere, cazzo, ma uscivi di testa con queste cazzo di cose. È un casino, a volte ti portano in posti dove non ti devono portare. Una volta andando a Olbia l'ho messa apposta, anche se sapevo la strada, mi diceva gira a destra, bisognava andare dritti. Perché mi puoi far girare a destra? Che da poi non finirà nei traversi a destra, buh. Perché magari sono certe vie che non sono ancora aggiornate, capito? E sbagli, capito? E magari non hanno cambiato anche i segnali, ma ce ne sono così che non cambiano i segnali subito, e magari uno è chiaro che ci porta dall'altra parte. E con Continente non ne parliamo, un casino oggi andare in macchina in Continente dappertutto, specialmente sulla grande città, mamma, a Roma non si può camminare, cazzo, chi si deve saltare da ammazzare subito, da ammazzare, poi si immagina a Milano e a Torino, oh, per carità, ma prima il tratto magari era di meno, si camminava benissimo, ma adesso come fa? Io ripeto, con cambio giravo tutta l'Italia, tutta l'Italia, e non mi sono mai perso, mai, sempre perfetto. E poi adesso no, non me la pensavi a dal lupo in macchina, dire boh, c'è resistito, io non vado, vai già. Pure io ho girato tanto, dai, in macchina ho girato tanto, sono andato anche a Sirmione, a Pisa, da tutti i ribassi. A Sirmione ci sono stato 3 volte, bellissima a Sirmione. Ebbene, sente mala. Ciao a tutti. A tutti. Ciao, ciao. Ando, sono in macchina, come mi ascolti? Per il segnale, mi pare a fondo scala, mi pare. Ah, vero. Dove sei? Sto scendendo da Ponte Nuovo, là. No, 925 Radio 5. Sei un poco in più, se va a fondo scala, capito? Cala. La radio buona, buona. È una bomba, sì. Buonasera a tutti. Buon lui. Allora? Da posto, sì. Riposato, ti sì. No, sono andato da mio zio, sono andato. Sono andato da mio zio. Ma che si ritiruria qui? Ma cosa? L'accudito, da. No, da mio zio serio, là. No, vizio, le cattricudi, ma dove fa paura di me? Poi io ci mando di un giorno a fare i carabinieri di andarmene via, perché lui che ha paura di me, è il contrario. Vai Giovanni. Ma lavorato fai altro? Domani mattina sono in capannone. Ci ho telefonato l'altro giorno, ma non mi hai risposto. Vai, dai, c'è lo stesso numero. Già. Sempre quello lì, sempre quello. Domani mattina devo andare in capannone, devo andare alle 9:30. Ma ha detto, dobbiamo caricare l'FLC, il cambio, poi dobbiamo caricare subito perché dobbiamo andare in coso, in piazza Fiume. Chissà che maraggio ci vede. E dai, domani sera c'è il telefono e vediamo qua. Va bene, dai, vediamo se mi libero, perché domani mi ha chiamato a lavorare. Non c'è un problema, già lo sai, già te l'avevo detto. D'accordo, già ripreso che io mi sento che non sono altro. Ma noi ci sentiamo, dai. Tanto riprendete voi che non sono altro. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Noi siamo qua, se vuoi rientrare dopo, non c'è problema. Avanti a tu. Ma sei sicuro che sia a casa tua? Che tempo che arrivi in voce? Adesso mi sto rientrando, sto facendo la strada che porta su al monte, quella strada nuova. Io non ci ho notato nessuna differenza, la verità. Sei sempre in voce, no? L'antenna l'abbiamo messa apposta stamattina. E cosa avevo? l'ascetta e se la ruggirita non te ne fa il filo è fuoriuscito dalla molla, è normale che dava stazionaria, c'era il filo fuori, perché quell'antenna lì è fatta in un modo particolare, c'è un capo che entra nella fine della molla, c'è il buco e tu devi entrare in questo capo e fascettarlo, e, diciamo con le fascette d'acciaio, solo che l'hanno messa in ferro, deve essere, ragazzi, si è frazzicata e si è spaccata. Ma fesseria, camma tu chi sei a posto? Capo, adesso non si muove nemmeno l'ago. Capo, così a fondo scala, 9.30, sì. Ma a me forte mi senti già? Sì, sì, sono vicino a casa, sono sotto casa, dai, sotto il portone di casa sono. E sto rientrando a prendere il cane, dopo scendo il cittadino. Sono proprio sotto il cancello. Sì, a fondo scala, come arrivi? Come arrivi? A casa Doia arrivi qua, cioè uguale. Sì, a fondo scala qua. Sì, un bel forte. Ma è buona questa antenna, dai. I polacchi le fanno bene le antenne. Polacchi, cosa ti hai comparato? È un'antenna polacca, non è italiana. Sì, vabbè, anche la Lemo è buona lo stesso. Cappa. Tipo io, forte. Prova. 9-3, 9-3. Sei fondo scala, tu. E adesso sono parcheggiato. Ma c'è una bomba qua, sei a fondo scala. Sei proprio voci. Mezzo gai, dai. Io vi saluto, smonto tutto e salgo a casa, dai. Che devo prendere il cane e portarlo giù. Ciao. Ciao. Ciao, già, ci sentiamo. Io un attimino di bianco che c'ho gente a casa, ok. Ciao Manuel, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao già, mi assento anche io, dai. Casomai ci sentiamo alle prossime. Ciao a tutti.